Parliamo di lavoro con INAPP. E come dicono al telegiornale, voltiamo pagina. Voltiamo pagina, ah, perché sì. Anche al radiogiornale. Sognavo di dirlo, devo dire, da molto tempo. Allora, parliamo di lavoro con INAPP, come tutti i mercoledì, cara Debora. Abbiamo al telefono due ricercatori, sono Emanuele Crispolti, buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno, grazie a voi. E Andrea Carlini, sempre ricercatore INAPP, buongiorno anche a lei, Carlini. Salve, buongiorno. Allora, abbiamo convocato il dottor Crispolti e il dottor Carlini perché? Perché INAPP ha riattivato un monitoraggio che in realtà si era già fatto in altri anni, ma poi, come dire, si era un pochino sfilacciato, un pochino smarrito, relativo ai percorsi di formazione professionale. Allora, i percorsi di formazione professionale in Italia hanno diverse, per così dire, gradazioni, poi ce le spiegheranno meglio i due ricercatori che abbiamo in collegamento. La sostanza su cui ci andiamo a concentrare sono i cosiddetti percorsi IEFP, sono percorsi di istruzione e formazione professionale, da lì IEF, e il perfezionamento che in sigla si chiama IFTS, che è appunto l'anno che si può aggiungere al triennio o al quadriennio della formazione, della prima formazione professionale. Fin qui, Crispolti, dovrei aver detto tutto correttamente. Beh, sì, abbastanza. Diciamo che i percorsi di IFP sono dei percorsi triennali che rilasciano una qualifica, poi c'è un quarto anno sempre IFP che rilascia il diploma e che quindi fa passare la figura, diciamo, da operatore a tecnico. E il percorso degli FTS è in linea ideale, diciamo, quella prosecuzione di quella che noi chiamiamo la filiera lunga della formazione tecnico-professionale, cioè percorsi professionalizzanti che possono, diciamo, portare a progressive specializzazioni. Quindi gli FTS sono un'annualità di ulteriore specializzazione, non però soltanto per i ragazzi che escono dal sistema IFP, ma anche per tutti i ragazzi che hanno un diploma di maturità. Quindi diciamo che all'uscita dalla, perdoneranno gli ascoltatori, io dico sempre scuola media, chiedo anche il perdono di Maria Piera Ceci, che mi perdonerà se dico ancora così, ma c'è questo percorso iniziale, 3 o 4 anni, è l'istruzione e formazione professionale, sono le varie attività, possono essere attività legate, che so, al turismo, alle attività più pratiche, come può essere, non so, un riparatore auto, per dire, o comunque altri tipi di attività. E invece poi c'è questo percorso di completamento, di corollario dell'IFTS, la formazione tecnica superiore, che è un anno, che al termine del quale poi c'è anche l'accesso all'università, possibilmente. Chiedo al dottor Carlini. Diciamo che idealmente questi corsi sono molto orientati verso la dimensione occupazionale, quindi verso la ricaduta occupazionale. E, in linea puramente teorica, c'è un ulteriore tassello di ascesa, diciamo, del proprio percorso di specializzazione, che è costituito dall'istruzione tecnica superiore, e qui purtroppo dobbiamo inserire un altro acronimo e vengono identificati come IETS, certo, che costituiscono, diciamo, l'ultimo tassello di questa lunga filiera della formazione tecnico-professionale. E parliamo di corsi biennali, al termine del quale, diciamo, si è esaurita la filiera lunga, e dopodiché c'è un inserimento nel mercato del lavoro. Ovviamente i corsi IFTS sono corsi di per sé, come diceva il mio collega, autoconsistenti. Possono appunto accedervi ragazzi o anche persone più adulte che nel corso della propria vita decidono di specializzarsi ulteriormente e anche in qualità di lavoratori iscriversi a un corso di formazione tecnica superiore. Noi nella nostra indagine abbiamo riscontrato, cioè, una quota ancorché ridotta, ma comunque importante, pari a circa 10% di studenti lavoratori, cioè di persone che hanno frequentato il corso IFTS ma erano già essi stessi lavoratori e evidentemente hanno scelto questa ulteriore specializzazione proprio in un'ottica di crescita professionale all'interno della propria azienda, dell'azienda presso cui lavorava. Grazie Carlini. Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare per qualche minuto per ascoltare gli aggiornamenti della borsa dalla voce di Debora. Segnalo una cosa soltanto prima di lasciare il microfono a Debora. Questa indagine che è stata condotta appunto e guidata da Emanuele Crispolti ed Andrea Carlini ha riguardato gli esiti occupazionali di questi percorsi formativi, quindi quanta gente poi trova effettivamente lavoro e con quale soddisfazione, con quale utilità del corso che ha seguito. La verità è che i piccoli commercianti si oppongono strenuamente a qualsiasi cosa che registri i loro incassi. La mia lavanderia ti fa ancora la ricevuta scritta a mano sul blocchetto e solo quando gliela chiedi. E ogni volta che gli dico ma quando metti il POS mi dice che è il commercialista che gli dice che non gli conviene metterlo. Allora ragazzi, per me qualsiasi cosa venga fatta per costringere a battere gli scontrini è tutto grasso che cola, perché io mi sono rotto le scatole della concorrenza sleale di chi non fa lo scontrino, vende la stessa cosa tua ma non fa lo scontrino, risparmia l'IVA, risparmia l'IRPEF. Buongiorno Debora, io sono una cliente dell'Unipol e se mi regalano la polizza ben venga, lei si faccia i fatti suoi gentilmente. Buona giornata. Ma Debora, tu però non avevi detto di non regalare la polizza alla signora, no? Esatto, ho detto benvenga, no, assolutamente, infatti. Ma ci mancherebbe altro, tutto ciò che fidelizza la clientela benvenga. No, e quello che dico detto... è che però un'assicurazione deve fare anche il suo, risarcire i danni a fronte di un premio pagato per ottenere un servizio, quando si rende necessario espletare questo servizio che lo facciano anche, perché il loro core business non è il regalo delle polizze, è fare in modo che le polizze assicurative funzionino secondo i principi di base del funzionamento delle polizze assicurative, tutto qua. Però sorrideva la signora, spero che mi abbia dato una strigliata, una tirata d'orecchie in simpatia. Sì, sì, ho colto anch'io questo aspetto sorridente dell'ascoltatrice. Allora, sulla lotteria poi dei scontrini... Poi se Unipol vuole venire a parlare a Radio 24, noi siamo sempre ben contenti. Se si candidano, naturalmente, siamo qua pronti a... Possono scrivere a due di denari@radio24.it, esatto. Anche Unipol può scriverci naturalmente. Sulla lotteria degli scontrini mettiamo la questione tra parentesi, tanto ci dovremo tornare, Debora lo sai benissimo, sì. E invece stiamo sulla formazione professionale. È chiaro che in questo momento, in questi mesi, insomma, parlare di percorsi formativi insomma sembra quasi un po' un esercizio di stile, ma non lo è, perché poi questi percorsi durano 3 anni, 4 anni, hanno un anno di perfezionamento, come ci hanno spiegato i nostri due ricercatori ospiti questa mattina. Insomma, sono delle scommesse importanti, delle indicazioni, delle scelte importanti che le famiglie fanno, che i ragazzi e le ragazze fanno. Allora, in questa ricerca gli esperti, i ricercatori INAP hanno valutato quant'è poi il tasso, ad esempio, di occupati passati un po' di mesi, un po' di anni dalla distanza della conclusione del percorso formativo. Crispolti, che numeri sono emersi? Precisando che l'indagine ovviamente non si è completata in questi mesi, ma risale alla fine 2018, se ricordo bene. Sì, è giusto effettivamente fare questa premessa, perché naturalmente ci troviamo nel periodo pre-Covid e quindi non a caso noi stiamo comunque anche rendendo più stabili e periodiche queste indagini. Infatti questa è la terza, stiamo lavorando a una quarta e già organizzando la quinta, e lì naturalmente andremo a misurare anche lo scarto fra il prima e il dopo, e chiaramente troveremo una situazione certamente diversa fra il prima e il post-Covid. Questo è il periodo ancora pre-Covid e dà dei risultati molto significativi e molto, molto buoni. I numeri che escono per quanto riguarda la filiera della IFT, ad esempio, riporta una percentuale di occupati di giovani qualificati, quindi quelli usciti al terzo anno dai percorsi, del 62%, oltre il 62%, che è un dato molto buono, tanto più se consideriamo che poi c'è un'altra quota di circa 9% che è comunque ancora in formazione. E il dato che riguarda i diplomati, quindi coloro che hanno acquisito un quarto anno, quindi diploma di tecnico, è ancora migliore, perché riporta una percentuale di occupati del 69%, con un 7% di giovani in formazione. Quindi un dato, diciamo, che sicuramente è molto, molto significativo. Per quanto riguarda... Prego, Deborah. Sì. Posso fare una domanda al dottor Carlini? No, perché mi stavo chiedendo, naturalmente noi raccontiamo molto spesso delle peculiarità del nostro mercato del lavoro in Italia, lo stivale è lungo, le problematiche sono inevitabilmente diverse, ci sono zone con grossi problemi, altre zone in cui magari trovare un'occupazione anche rispondente alle proprie qualifiche e alla propria formazione è più facile. Quindi, dottor Carlini, le volevo chiedere, esistono dei territori dove questa tipologia di formazione manifesta particolarmente la sua efficacia? Allora, guardi, innanzitutto occorre precisare una differenza generale tra i due sistemi. Parlando della IFP e quindi della formazione rivolta ai più giovani, dobbiamo precisare che essa si trova praticamente su tutto il territorio nazionale. I percorsi triennali e ormai anche i quadriennali sono praticamente diffusi su tutto il territorio. Ciò non vale purtroppo per la formazione tecnica superiore, cioè per quel famoso quinto anno di ulteriore specializzazione. E questo purtroppo è un dato di partenza su cui chiaramente l'indagine si è concentrata molto e ha in qualche modo richiamato anche le istituzioni competenti a in qualche modo prendersi cura di questo gap importante. Pensi che la formazione tecnica superiore è presente per lo più nelle regioni del centro-nord, c'è una fortissima preeminenza della Lombardia, poi la dorsale appenninica, diciamo così, Emilia-Romagna, Toscana, il Friuli, le Marche e poi ecco ci sono esperienze purtroppo circoscritte nel tempo che abbiamo riscontrato in Campania e in Abruzzo, quindi già questa collocazione a macchia di leopardo in qualche modo ci restituisce una certa fragilità del sistema complessivo. Detta questa premessa, per quanto riguarda l'efficacia, ecco, l'efficacia è per lo più presente, l'efficacia dei corsi in termini di ricaduta occupazionale, noi l'abbiamo riscontrato ovunque. Chiaramente sussistono delle disomogeneità locali ed è una diversa velocità nell'accesso ad una professione per chi ha svolto con successo questa tipologia di corsi, però anche nei contesti più difficili l'impatto positivo noi lo abbiamo riscontrato. Se da un punto di vista, diciamo, nazionale, se il dato nazionale ci dice che ad un anno dalla fine del corso la media nazionale si attesta su il 54% di persone che si dichiarano occupati, nei contesti più difficili, voglio essere esplicito, appunto la campagna, questa percentuale sicuramente scende, ma si attesta al 40%, quindi non c'è un crollo, la virtuosità del corso a nostro avviso viene confermata e pertanto questo deve anche essere, come dire, un input verso le altre regioni del centro-sud che in qualche modo, basandosi sull'esperienza delle regioni del centro-nord e della Campania, così come dell'Abruzzo, in qualche modo devono ragionare sull'opportunità di progettare e realizzare questi corsi, altrimenti si assiste e si ravvisa un gap in termini di opportunità tra i ragazzi e i non ragazzi, perché ripetiamo, sono corsi a cui accedono anche over 35, parliamo, certo, magari qualcuno che ha perduto il lavoro, ad esempio, no? O vuole migliorare la sua preparazione iniziata con il percorso IFP. Assolutamente. Noi abbiamo trovato una percentuale di quasi il 14% di over 35, quindi persone che hanno già una propria esperienza professionale alle spalle e che o intendono riconvertirsi o, come dicevo precedentemente, intendono ulteriormente specializzarsi per, diciamo, una propria progressione personale. Yeah. Sì, sì, Deborah, stavo scherzando. Sono la cliente dell'Unipol. Buona giornata. Va bene, allora Deborah, abbiamo fatto pace con l'ascoltatrice. L'amore trionfa e il bene vince sempre sul male, verrebbe da dire. Torniamo a parlare di lavoro con INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Stiamo parlando di formazione professionale, una formazione che spesso soffre degli stereotipi, dei pregiudizi che la considerano un po' una sorta di percorso formativo di serie B, ma che invece l'indagine INAP che ci stanno raccontando Emanuele Crispolti e Andrea Carlini ci conferma essere una formazione comunque soddisfacente dal punto di vista dei numeri degli occupati, quindi andiamo oltre il 60, quasi al 70% di chi frequenta questi corsi arriva a poi a trovare un lavoro. Ma che tipo di lavoro, Crispolti? Un lavoro soddisfacente, un lavoro che insomma, con che tipo di contratto anche avete riscontrato? Beh, diciamo sì, intanto confermo il fatto che non è una formazione di serie B, nel senso che per quanto riguarda ad esempio la filiera IFP certamente ha anche un'anima antidispersione perché recupera quote importanti di giovani che provengono da insuccessi scolastici e con le modalità diciamo della didattica attiva, del lavoro molto come dire, presente nei percorsi formativi. Ricordiamo che entrambe le filiere hanno un minimo di 30% di attività svolta in azienda, quindi c'è come dire, quindi gli stage insomma vengono fatti. Esattamente, sì. Gli stage quindi sono filiere molto professionalizzanti che riescono anche a rimotivare magari soggetti che provengono da situazioni più difficili. Però diciamo questa è solo una quota, per il resto diciamo si tratta di persone che vengono assolutamente immesse sul mercato di lavoro con una alta qualità anche di professionalità. Per quanto riguarda diciamo i contratti di lavoro, sul versante dell'IFP abbiamo prevalentemente dei dipendenti a tempo determinato tra il 62 e il 63%, ma una quota anche importante di soggetti che hanno contratto a tempo indeterminato, quindi siamo fra un 28 e un 31%. Quando dico stiamo fra, perché si tratta lì di due tipologie qualificati diplomati, quindi senza che vado a discriminare, allungarmi troppo, ecco, do un piccolo range, ma insomma siamo sul 30% di tempo indeterminato. Il restante 9% si divide fra i parasubordinati e gli autonomi. Per quanto riguarda gli FTS, diciamo invece abbiamo un contratto a tempo indeterminato per quanto riguarda il 38% degli ex corsisti e a tempo determinato, quindi sempre quello prevalente, intorno al 49%. Quindi queste sono le tipologie. Molta soddisfazione anche nel lavoro perché se pensiamo a quello che è il ripeto la soddisfazione del lavoro dei giovani qualificati e diplomati nella IFP, noi gli abbiamo chiesto di esprimersi in termini di una gradualità fra il per niente e il molto soddisfatti, quindi 4 da per niente, poco, abbastanza, molto soddisfatti, e abbiamo che la grande maggioranza dei ragazzi si esprime soprattutto sul abbastanza o molto soddisfatti su tutte le diciamo le caratteristiche del lavoro che abbiamo indagato, quindi le mansioni, la stabilità e sicurezza del posto di lavoro, il rapporto con i colleghi e con i superiori, le condizioni ambientali e la possibilità di crescita professionale, quindi un livello di soddisfazione del lavoro che è diciamo notevole, così come risulta notevole anche la coerenza fra il lavoro svolto e il percorso formativo realizzato, che è un altro elemento importante. Questo è molto importante perché spesso parliamo anche di sottooccupazione oppure di impiego molto diverso rispetto al percorso formativo che è stato fatto. Esatto, questo ci parla proprio della qualità anche del lavoro naturalmente, e teniamo presente ecco che su questo abbiamo un 60% che dice che il lavoro è completamente coerente con il percorso formativo realizzato, a cui si aggiunge un altro 15% che dice che lo è in parte, quindi praticamente resta un 24% che non trova coerenza tra il percorso formativo realizzato e il lavoro svolto. E così come anche sul versante ad esempio del gradimento, parliamo sempre ancora di IFP, del percorso formativo realizzato, questa poi essendo una percezione evidentemente anche una, come dire, un'analisi retrospettiva del proprio vissuto evidentemente, no? E su una scala da 1 a 10 troviamo che la maggioranza si esprime tra l'8 e il 10, quindi con molta positività rispetto a tutti gli elementi del percorso, quindi l'interesse degli argomenti, il rapporto con i compagni, anche quelli meno scontati, cioè il rapporto con gli insegnanti, la capacità dei docenti e una grande soddisfazione anche rispetto allo stage, che viene visto come elemento importante per acquisire sicuramente ulteriori competenze tecniche, ma ancor di più per acquisire quelle cosiddette competenze trasversali che riguardano il come comportarsi sul lavoro, come relazionarsi con i colleghi, come riferirsi al sistema produttivo nel quale sono inseriti. Esatto, Deborah, dici Mauro, bene, le soft skills. Sì. Esatto, no, volevo chiedere se ci sono delle evidenze anche per quello che riguarda l'accesso a questi corsi, a questi percorsi da parte delle donne. Che scelte fanno, se c'è una distribuzione equa sulle tematiche di genere, dottor Crispolti? Per quanto riguarda, diciamo, ecco, la tematica di genere è un elemento importante, perché a livello di partecipazione c'è una partecipazione per quanto riguarda l'AFP piuttosto equilibrata. Ci sono tipicamente delle qualifiche più maschili, come ad esempio quella del meccanico riparatore o dell'operatore edile, evidentemente, e dell'operatore elettrico, e ci sono altre che sono invece come dire, ambivalenti, quindi abbiamo tutto il comparto ristorazione, quindi cuochi, camerieri, che riguarda entrambi i generi, e poi c'è ovviamente l'ambito del benessere, che invece è tipicamente appannaggio femminile. Quindi, diciamo, estetista, parrucchiere sono quasi esclusivamente frequentate dal pubblico femminile. Quindi c'è una differenza, e una differenza di genere lo riscontriamo anche in termini occupazionali, perché c'è un tasso di occupazione delle ragazze che è abbastanza inferiore a quello dei ragazzi, diversi punti inferiore. Ma soprattutto, se andiamo poi a analizzare questo dato, ci accorgiamo che questa differenza è soprattutto rilevante nel caso delle ragazze di origine straniera. Quindi, mentre non troviamo una grande differenza in tasso occupazionale tra i ragazzi, tra i maschi, diciamo, italiani e quelli di origine straniera, lo troviamo fra le ragazze italiane e le ragazze straniere, che sono quelle che abbassano molto, diciamo, il tasso occupazionale per probabilmente una serie di motivi anche legati a fattori culturali. Certo. Dottor Carlini, abbiamo un minuto prima della chiusura. Per informarsi, una famiglia, se comprendo bene, anche perché lei ci ha spiegato, gli IFP, cioè i 3 o 4 anni, sono diffusi su tutto il territorio, ma invece gli IFTS, l'anno di perfezionamento, per dir così, è solo in alcune regioni, soprattutto al centro-nord. Quindi come si fa? Si va sui siti delle regioni, immagino, dottor Carlini? Sì, assolutamente. Questo è un tema centrale, il tema della visibilità e della riconoscibilità dei corsi di formazione tecnica superiore. È un tema che dovrebbe essere, diciamo, ai primi posti dell'agenda delle istituzioni preposte. La possibilità di accesso è di fatto delegata alla capacità delle famiglie di informarsi attraverso, appunto, i siti delle regioni e nelle pagine dedicate alle politiche educative. Chiaramente la premessa, che non posso che confermare, è quella che deve sussistere un sistema di offerta nella propria regione, altrimenti purtroppo non c'è possibilità di accesso. Grazie. Proprio per questo è importante, appunto, una convergenza delle istituzioni affinché questo sistema si possa diffondere su tutto il territorio. Grazie ad Andrea Carlini, ricercatore tecnologo INAP, e grazie ad Emanuele Crispolti, pure ricercatore presso INAP e responsabile nell'ambito della struttura Sistemi e Servizi Formativi del gruppo di ricerca proprio IFP-IFTS, cioè la formazione professionale di cui abbiamo parlato. Due di Denari torna domani. A domani, Deborah. Buona giornata, a domani. Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.